America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Apriamo una settimana affrontando anche tematiche che in qualche modo ci dovrebbero portare al Natale. E dunque, direi così, argomenti che evitino di ritornare sempre su polemiche, su liti continue. Lo spunto lo abbiamo da Washington. Nella capitale americana si è ritrovato un nuovo spirito di bipartisanship per la prima volta in 2 anni. Lo abbiamo visto con il voto che c'è stato venerdì per la riforma del sistema fiscale, o meglio per il prolungamento dei tagli fiscali di George W. Bush. Democratici e repubblicani alla Camera in rapidità sono venuti insieme, 277 voti favorevoli, 148 voti contrari, ma quello che è più interessante è che in questa composizione di voto 139 democratici e 138 repubblicani hanno formato una sorta di coalizione centrista, hanno dato un messaggio al paese molto positivo, e cioè che il muro contro muro è finito e ci si è messi d'accordo, si è dimostrato che anche se il governo all'inizio del prossimo anno avrà una Camera a maggioranza repubblicana, il dialogo è comunque possibile. Sono state un po' le prove generali per questo nuovo vento di collaborazione che sembra soffiare a Washington. Non so quanto durerà, però per esempio nel corso del fine settimana il Senato ha approvato con una maggioranza di 63 voti la famosa proposta di legge per eliminare questo don't ask, don't tell, una sorta di ipocrisia che formalmente impediva ai gay di entrare nell'esercito, semplicemente perché loro non lo dicevano e nessuno glielo chiedeva. Poi entravano lo stesso, però l'ipocrisia, diciamo, salvava la situazione. Happy holidays everybody. Merry Christmas and God bless you all. And God bless the United States of America. Thank you very much. Ecco, in questo contesto di spirito di collaborazione, di dialogo, di apertura, di convergenza verso il centro, è inevitabile pensare che forse un messaggio di questo genere possa essere recepito anche da noi in Italia, dove sappiamo che c'è un governo con una maggioranza molto piccola e dove ci sono delle importanti riforme, soprattutto sul piano delle riforme strutturali della burocrazia, che dovrebbero essere portate avanti. Allora, di questo vorrei parlare con Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Lo abbiamo con noi in linea, quindi gli chiedo se non è possibile che anche in Italia ci sia sempre nello spirito natalizio un po' più di collaborazione e di convergenza verso il centro. Per la verità in Italia ci sono da parecchio tempo ormai molte persone le quali pensano che dovrebbe esserci una convergenza fra quella componente pragmatica del centrodestra e quell'altra componente che certamente esiste anche all'interno del centrosinistra, e sappiamo che molti sono convinti che esista, per così dire, una maggioranza del buonsenso in Italia, se si sommano le teste pensanti di una parte e dell'altra dello schieramento, ma ho l'impressione che questo non stia accadendo, anche se noi l'abbiamo raccomandato, noi intendo come Corriere della Sera, perché in Italia non si può fare? Beh, anzitutto perché negli Stati Uniti si fa, anche perché esistono condizioni particolari, vale a dire la nascita di un movimento populista forse, o comunque protestatario o libertario secondo le definizioni di altri, quello del Tea Party, che in qualche modo spiace sia ai democratici che ai repubblicani, quindi i democratici e i repubblicani, o quantomeno molti fra questi, hanno interesse a dimostrare che Washington non è Washington ladrona, perché certamente negli Stati Uniti questa leggenda di Washington chiacchierona e ladrona certamente esiste. Da noi questo non c'è, sì, ci sono delle frange molto, molto arrabbiate, molto umorali, ma insomma questo grande movimento non c'è e non lo stanno creando, per così dire, né Vendola né Di Pietro, tanto per intenderci. E poi c'è un'altra cosa che bisogna ricordare, che la materia del contendere in Italia non è tanto si fa o non si fa una certa cosa, si cambia o non si cambia la Costituzione, la materia del contendere è il Presidente del Consiglio. Però scusi, ci sono anche delle urgenze. Qualche giorno fa abbiamo avuto a New York la riunione del Consiglio Italia-Stati Uniti, c'era anche la Presidente di Confindustria Mercegaglia, la quale diceva noi abbiamo bisogno di riforme urgenti, al di là per esempio della riforma costituzionale, proprio delle riforme che consentano al Paese di andare avanti. Secondo lei è possibile trovare una convergenza su cui mettersi d'accordo per fare alcune delle riforme, diciamo anche più terra terra? E quali sono, secondo lei, se ci sono? Ma anzitutto il ragionamento di Emma Marcegaglia è un ragionamento sindacale. Lei difende, per così dire, le posizioni degli industriali, i quali chiedono che cosa? Ho l'impressione che stiano chiedendo al governo quella che una volta si chiamava una politica industriale, ma noi sappiamo perfettamente che una politica industriale è una politica di aiuti, di sussidi, di incentivi. Si possono fare queste cose? Crede davvero lei che una grande coalizione fatta da pragmatici del centrodestra e pragmatici del centrosinistra potrebbe fare qualcosa di molto diverso da quello che hanno praticamente dovuto fare i governi degli ultimi 15 anni? Vale a dire stare molto attenti al debito pubblico e cercare di non far salire lo spread fra i tassi di interesse italiani e quelli tedeschi. Insomma, le cose che si debbono fare sono probabilmente altre, sono la riforma della burocrazia. Sì, certo, riforme strutturali, esatto, riforma della burocrazia, esattamente, mi riferivo a quello. Sì, perché quelle tra l'altro dovrebbero in linea di principio permettere risparmi, permettere una diminuzione della spesa pubblica, anche se devo dire la verità che io non ho mai visto riforma destinata a ridurre la spesa pubblica che all'inizio quantomeno non comporti spese superiori, perché poi bisogna mandare gente a casa e per mandare gente a casa in generale bisogna pagare. Quindi attenzione, perché non vorrei che poi gli argomenti del dibattito polemico, che sono sempre argomenti strumentali, finissero a prevalere sull'agenda reale del Paese. Ma dunque lei è ottimista o pessimista sulla possibilità che da qui ai prossimi mesi questo governo riesca a trovare una maggioranza abbastanza larga per fare delle riforme, diciamo, interessanti? Beh, intanto dovrebbe fare quella della pubblica istruzione, che quantomeno è considerata positivamente anche da persone del centro-sinistra. E quindi questa è già una riforma che il centrodestra sta facendo con l'accordo, con il consenso tacito, perché naturalmente nessuno ha voglia a sinistra di dirlo esplicitamente, ma di molte persone che alla sinistra o al centrosinistra appartengono. Vede, bisogna essere ottimisti, sì, però ripeto, il problema è un problema dell'esistenza di un Presidente del Consiglio che non è in qualche modo riconducibile alle dimensioni normali di un leader politico. Perché è così, perché è fatto così, perché ha il suo stile, perché ha il suo carattere, perché ha le sue abitudini, perché è boss. È boss e del resto tutto sommato non, se lei glielo dicesse non sarebbe nemmeno scandalizzato. Quindi diciamo che una sorpresa per l'anno nuovo potrebbe essere quella di vedere il Presidente del Consiglio Berlusconi pronto al compromesso. Assolutamente, ma naturalmente questo compromesso non dovrebbe essere presentabile a Berlusconi come dire la fase finale di un Presidente del Consiglio d'amministrazione in scadenza. Questo naturalmente Berlusconi non lo accetterebbe. Bisognerebbe che venisse in qualche modo presentato in modo diverso. Io ci continuo a sperarci, perché sarebbe assurdo, come dire, essere totalmente pessimisti. E poi non bisogna dimenticare che è terribilmente irrealistico essere ottimisti per l'Italia, sull'Italia, ma è altrettanto irrealistico essere completamente pessimisti. Grazie a Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Ci sarebbero mille altre notizie e idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarle su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. E veniamo alla canzone del giorno. Spirito natalizio, vi ho detto all'inizio. Ebbene, la canzone la cerchiamo nello spirito natalizio, nell'ottimismo, nello spirito di ottimismo con cui ci ha lasciato Sergio Romano. Questa settimana vi proporrò soltanto delle canzoni natalizie. Cominciamo con White Christmas di Bing Crosby. With every Christmas card I write